io adoro il rock è la mia vita, la musica è la mia vita e io adoro tutti quanti i rockettari e specialmente i Tokyo Hotel, capito? Perché i Tokyo Hotel sono dei artisti bravissimi e tu te ne devi soltanto andare a cagare. Shut up, bitch!